20, 20, 20, 29, Torino, poi domani c'è il dentista, vediamo che lo finisca alle 11:15. E poi devo fare la solita altra, quella che ti ho letto. Ah vabbè, così è. E così è. E così è. Va bene. Perché io non so bene mille cose, forse è giunta meglio su una cosa. Speriamo. E dunque, niente. Dove sono raffreddato, ma non per venerdì, perché sono uscito in camicia, sono andato a prendere in macchina, per quello che mi ha fulminato, ero in camicia e sono uscito fuori a prendere qualcosa in macchina e quello che ha fulminato, con fulbriciatola, due giorni mal di testa, ho fatto ieri notte, ero crepato, continuavo a dormire e mi mantenevo la testa dal lavoro stamattina. Hai lavorato stamattina? No, la notte, ho fatto venerdì, sabato e domenica notte, ho smontato stamattina. Ah, allora già eravamo assieme, sì, venerdì, sabato e domenica. Adesso c'è riposo, due giorni. E adesso dentro giovedì. Oggi ho lavorato, no, lunedì ho lavorato, dove ti gli ridò. E spero che mi passi, perché non mi puoi dire andare a fare un lavoro con Marco. E niente, perché devo andare a Villarelba. Spero che passi e poi c'è un problema che non la città, ma secondo me non è quello. Oggi sto un po' meglio, speriamo, dai, adesso vabbè, è lunga qua il radio a spiegare, però a fare un po' di cose. Speriamo, aspetta che metto la tua parola esterna, vai se sento meglio, perché questo è un po' vecchiotto, la radio funziona benissimo, ma mi sa che come ho parlato è un po' scadente, aspetta. Dentro nello scaffale dei baracchini e ne ho preso uno, poi prendo il Perception a vedere se funziona ancora quello base, perché è una canona. Questo auricolare è bello, bello compatto, la modulazione è buona qui, vedi? Sì, è un po' di bombante, ma è forte abbastanza. Ho avuto anch'io il Perception Simpson, ma quello per macchina, capito? Era bellino, era, faceva bene. Ti dirò, l'avete avuto a pace anche al 2030. Non mi ricordo che fine hanno fatto. Disordinati siete, ragazzi, questo ha fatto la fila, questo è un regalo che mi ha fatto un amico, ce l'ho sempre, sempre, sempre, non l'ho mai dato, perché è un 120 più 120, con le bande laterali, molto semplice, tra AFR, USB, USB, AM, non AFM, ma è molto semplice. Poi c'hai due tasti sopra, locale ed X, quindi noi quando si assono locale sono i canali normali, vanno in X e vanno i canali alti. Un bel baracchinetto, semplice ma si fa ascoltare, dai. Ok, quindi Tony, tu che sei di tanto, perché c'è anche Fabrizio che è in QRX, lo posso ottenere anche così, a metà, va bene? Per me è ottimo, come segnale radio, perfetto. E dove ci fate? Non sono molti, ma non sono neanche pochi. Questo è 12 watt in AM, forse voi modificato, non so, 15 mi pare, sì, 15, 10 watt in AM e 15 watt in SSD. Andale, e tu, a riposo oggi? Oggi sì, mi riposo, sì, momentaneamente, come troppo per esterno, ma in realtà in casa ho fatto parecchio, perché mi hanno regalato una di quelle lampade enormi che vanno in salotto, grandi, tutto in rame, ma ricamato, sembra addirittura egiziano, da come è fatto il ricamato, bello veramente, pesante che un trono. Niente, ho rifatto l'impianto elettrico, l'ho sistemato, l'ho girato, con Sido, insomma, tutto mangiato per sette. Ho visto gli attacchi che c'erano, per carità, la facevano pietà, come fanno a mettere la massa alla fase, la massa, cioè il neutro addirittura, o la fase a viceversa, un casino. Ho dovuto sfilare tutti i fili, riprendere al capo l'impianto, è perfetto, scendi spegni. Era una bella lampada, c'è il cappello che è enorme proprio, sono di quelle lampade alte 1,50 e niente, mi sono dato a fare, dato che non dovevo fare niente, ho fatto anche oltre, mi ha fatto un po' staccare, dai. E allora, insomma, già stavi facendo qualcosa? Eia, ma non sono mai fermo, io quando sono fermo mi annoio, ho capito, allora dico devo uscire, allora esco, dove vado? A consumare nafta, niente, allora ho detto beh, allora per consumare il gasolio, tanto vale, mi faccio qualche cosa da fare, sa vedere, sa, ok, adesso mi aggiusto quella lampada. Niente, praticamente ho fatto una modifica, perché quella che mi ha regalato, chissà come cacchio l'ha svitato e ha tagliato di netto proprio la frettatura che c'era dentro, che andava nel cappello pensando. E niente, io ho provato mille maniere, una misura molto molto diversa, sono potuto andare da Tecromat e ho preso una barra filettata da 10, ho fatto fare parecchie modifiche e dopo tanto ci sono riuscito a posto. Prego per un controllo. Carta, che per il controllo, avanti. Sì, qui Giuseppe, operatore a Pila Reale, un controllo, grazie. Giuseppe, Santiago 7, che è un po' di QRM, poi si dice, comunque, la radio è, ti posso dare un radio 3, non di più. Che zona stai modulando? Da ottava, Sassari. Da ottava, siamo già sì della tua volta. Claudio, lo ascolti? Sì, non so se mi ascolta lui, qua è lo stesso, molto molto basso, però riesco a tirarlo fuori. Giuseppe, mi ascolti? Sì, ti ascolto, c'è molto QRM. C'è poca potenza, 10 watt, ma comunque le portate mi ascolti. Io ti sento ma molto molto basso. Ok, grazie per il controllo, buon proseguimento. Prego, grazie a te per essere entrato, vai Tony. Scappa Giuseppe, quando vuoi entrare non c'è problema, siamo qua. Ciao, stai bene. E poi anche tu sei molto più distante di me, capito? A me per superficie media, sono più aperto verso di lui, verso Tava. Ma tu sei un bel adarito, quindi cioè, ti ascolto lo stesso. Tronì, se qua sulla volta sopra la casa, è come ti dando. Come prima non cambia niente, perché sono molto alto. E che l'antenna è molto bassa, perché io la uso per i 10 metri questa antenna. Sarà 2 metri e mezzo, neanche 3 metri da terra, proprio vado a giardino. E poi massa, se la metto sopra la casa, sì, ma sopra la casa non la metto perché esteticamente già in vista non mi familiare, non mi vale rompere palle a nessuno, quindi la lascio stare dove è a casa mia, nessuno mi rompere palle. Posso anche tirarla su col palo, ma aggiungere altri 2 metri telescopici, 4 metri di palo, cavo già ce n'è, lasciarla lì dove è e superare la collinetta, insomma farla vedere più verso Sassari, dai. Perché adesso non lo vede Sassari. Beh certo, tu sei troppo aperto lì, Ottava ce l'hai davanti, io non vedo Sassari, figurato Ottava. Però se mi ascolta vuol dire che va bene, va? Sì, va bene, voglio che va bene. E io c'ho di luce, avevo il cortile l'antenna io. E purtroppo questo vicino di casa mia me l'ha fatto spostare e metterla fuori. Dopo il cortile ho spostato 3 metri, ho fatto un plinto di 2 quintali e mezzo di calcestruzzo, ferro di tutto c'è mezzo. Ci ho incementato un palo e poi ho messo altri pali che ero messo dentro con lui e ne ho 6 metri di palo adesso. E ci ho messo la Reno, come cavolo si chiama, ci porta vedotta, tutto qua. Ma comunque, vedo che sta andando bene, l'ho sceso da poco, tutta pulita, in tempo come la stavo contando tutta, si è dissaldato il rame al PL che va sotto il PL per il baracchino. E l'ho risaldato bene come Dio comanda, poi tra me ormai mi è successo qua. Ok, e quindi niente, sistemate con sopra come Dio comanda, adesso è a posto. E bisogna sempre fare bene le cose. Quando vai a Gagada, bisogna fare bene. Io se sposto l'antenna la sollevo, lì devo anche mettere i tiranti, quindi vabbè, terreno mio, quello dove c'è di fuori, non c'è problema. Però non voglio dare fastidio, non ne ho mai dato. E quindi me la sono messa nel giardino, anche perché non stavo più entrando, per i 10 metri già va bene perché è un banda laterale. E il 27 già ci facciamo sentire, magari si affutti, siamo 4 yard. Infatti, perfetto. Vabbè, cosa vuoi dire? Non mi piace la frequenza. È dato entrava anche uno. Niente, io c'ero intanto, adesso ci avevo acceso il baracchino, ho messo lo switch, se c'è qualcuno che arriva bene, lo sento, ma non lo sempre dentro anch'io, tutto qua. Ero un po' annoiato, infatti, quando ho sentito. Cosa Fabrizio? C'è ancora? Sì, ci sono, ci sono. Ok Fabrizio, ben sentito. Ok. Ehi Fabrizio, computer. Dice sempre fa tende che gloria. Fa bene a muoversi e per fare quello per l'altro. Quando si ferma claro, poi è un casino a riprenderti, capito? Io sono sempre fare faccio energia, quindi grazie a Dio sto troppo bene. Io da quando mi sono operato, Dio comanda, ah che bello, sto troppo bene. Ma io ci vedrà cosa fare. Ci siamo sovrappopolati, nel senso che io ho involontariamente toccato fino qua, si è staccato perché non c'ho le banane nel metatore e poi ho cercato di attaccarle e ho schiacciato direttamente e si è messo a parlare. Mollo e si è ritornato qua sotto. E non fa niente, ti dimmi. Ti ho detto che io non ne ho problema di operazione come hai tu, io ho solo problemi alle due anche. sempre sinistra, capito? Che ho le cartilagini consumate, quindi quando si infiammano vedo le stelle. Quindi adesso vediamo se fare delle filtrazioni particolari per rimettere in sesto la cartilagine o se no pazienza, se no me la tengo in due sintomi. Sì, che è tutta precedente. Il problema sono da solo a camminare, giusto? Però in macchina puoi andare, sì. Il problema è camminare, sì, cammino ma non corro più, cioè molto, molto lentamente. In macchina se faccio strada lunga mi fa male la gamba, mi devo fermare e scendere, mi fa male dalla coscia un po' in alto, capito? Il bacino, dall'inizio del bacino. Ma male, dolore, perché rimanendo ferma, anche in questa, io adesso in queste sedie, sono d'ufficio, no? Quelle sedie che usiamo un po' particolari, c'ho il cuscino sotto, perché altrimenti non posso stare più di un quarto d'ora, 20 minuti seduto. Ti capisco, io guarda, quando avevo quel dolore ho fatto 50 lezioni, avevo il sedere con la broda e mi facevo bene sul momento, poi tutto è capo. I dolori che ho sofferto io tra l'auguro neanche un cane, quando io mi coricavo la notte, la mattina mi alzavo a fare il caffè, mi mettevo a gridare che il dolore sembrava che mi stavo trapanando dietro l'osso sacro. Dolori che duravano se no 2 minuti, ma per me erano un'eternità, non finivo mai, sudavo, dolori, gridando, guarda, poi dopo tanto mi passava, mi ho provato in tutte le maniere, passasse, volevo tagliarmi la parte dell'osso sacro, mettere una placca titanio, ma come le palle, mi hanno indirizzato mio nipote, questo Presulli, sono a Tanghiero, mi ha fatto tutto lui, mi ha dato 150 euro, ha davanti a me il telefonato, mi è arrivato un'email, il giorno 8 devi essere a Lugo, arrivo, e così mi sono portato anche a Manuela, che è colui, stessi problemi, capito? Allora, problema mio era solo uno, allora, praticamente, dove nella colonna vertebrale c'è un canale che passa tutti i nervi, il mio non so se è malformazione da quando sono nato, perché il tramo non l'ha mai fatto, grazie a che tarda età me lo fa, comunque, andò a finire tutto. Quando mi ha tolto l'ennia del disco, apriti il seno, infatti ha detto, Manuè, quando sono uscito a usare, a me non mi ha riparato l'ennia, mi ha rimbucca che dice che è impossibile, via faccio male la gamba se me ne fa male tutte e due, ma dolori forti, infatti è vero che ho chiamato un dottore che mi ha operato, e mi ha detto, purtroppo fra 3 mesi ti posso operare, e io dopo 3 mesi sono ripartito da solo, ho fatto il pre-ricovero, tutto quanto, mi sono operato 7 ore in sala operatoria. Ma ti dirò una cosa, sì, mi hanno messo delle viti dietro, con la faccia davanti, dietro, casino, ho 3 cicatrici nella schiena e un taglio davanti, ma mi ha levato un taglio cesario, la gambetta titana, eccetera, eccetera. Claudio, io sono rinato, perché io quest'anno vado in pensione, 2021 aprile, e cosa vado? Non siete l'hotel, vado, no, mi sono fatto coraggio, sono partito. E quando la notte mi hanno segnato dove mi devo aprire domani, in pace, ho detto che se mi riscappo io me ne fuggo, ma io ma cambiami la pazza, poi ho pensato, e se io mi faccio operare me ne vado via, e non chi, e chi da canzona? I dolori ce l'ho sempre come prima, forti, e non posso far nulla, se ne vado a sedere rotelle, no, mi sono fatto coraggio, posso ringraziare Dio che ho avuto la forza di andare da solo e operarmi. Io già mi ricordo quelle foto, ci avevi mandato le fotografie, tutte cose. Ma vedi, tu ci avevi il disco però. Quindi giusto, a quell'età che tu hai fatta prima di andare in pensione, perché così stai bene. Ma io non agio nel disco, ma è mai fatto di tutto di più. È proprio un problema di anche, capito? Consumato tutto, non c'è più niente, umidità, vale vari, movimenti strani che facevo, eccetera, da ragazzo. E mo, mi attacco, capito? È così, pazienza, cosa vuoi ti richia? Sono dolori brutti, guarda, se non nessuno io lo capisco perché so cosa vuol dire quei dolori. Quindi c'è Asciati che ha gridato. Sì, le disco il dolore è quello che vuoi, però non era così forte quando si toccavano nervi con nervi nel canalone dove passano tutti i nervi, è un casino. E lì mi hanno allargato il canalone a me. Poi di tiranti, con delle viti nel tratto della spina dorsale, nella schiena. E io sto bene, cazzo, io sono rinato, claro. io tutti mi hanno detto, quello il dottore, per qualità, tiro fine, ma mai ci me la penso, se mi ha preso in Sardegna. Mio cugino ha avuto lo stesso problema mio, uguale. L'hanno massacrato a Sassari, a Cagliari, quando poi ce l'ha fatta più, è andato fuori, gli ho detto, chi è che ti ha macellato così? Questi usavano negli anni 50, gli ho detto anche la sua sacrome, e la placca titanio, ma non tennate, io grazie a Dio, me la sono aperto, messo le guide e basta. E io sono arrivato qua. Lasciato un attimo di bianco, ma infatti, perché ti sono, tanto ti avranno fatto sicuramente un grande lavoro, alla grande, e poi, vabbè, l'azione è riuscita, tutto ok, tutto gappa, e va bene così, capito? E va bene così, la rottura di balle quando non va bene. E io purtroppo ho fatto tante cose, filtrazioni, un sacco di cose, un sacco di cose. Però non c'è niente da fare. Il professor Miris, che allora era primario ad Alghero in ortopedia, mi aveva sistemato e poi mi sono tornati questi dolori, capito? Aspetta un secondo, Tony, che vado a controllare che c'è roba al forno. Scappa, già sono qua. Che c'è il suo canale 10? Cazzo di propagazione, canale 11. Eccolo qua. Scappa, c'è un culo sul canale 11, è arrivato tremendamente splatterato, fortissimo, raga. Non si muove più nulla, no? Comunque da fuori, chissà quanto sarà toppato, raga. A posto della radio, va bene, brutto, aver toccato qualcosa. Oh, sta uscendo, Tony? Sì, un po' metallico, si leggermente. Metallico? Abbassiamo? Anche adesso? Adesso è migliore. Infatti, ho visto che non si muoveva più niente, l'aveva toccato col gomito la microfono. No, che tutti i microfoni che vi sono, le tue balle. Ma ci credi che io devo fare ancora uno spinotto qui al baracchino? Il microfono, io ce lo sciure. La mandronia, cioè mandronia, no, diciamo, non mi viene voglia di fare lo spinotto come si deve per chiudere, no, sono fini così soldato e basta. Perché dico dopo lo faccio, poi capita che mi chiamano, devo andare qua, devo andare là, o fai questo, mi sono ricordato che devo fare altra cosa, è quello, e mesi sempre così, e che se la piglia noci. Io quando devo rompere le palle a Fabrizio sempre. Tu non le fai queste cose qua? C'è una famiglia, cosa faccio? Il mio tecnico di fiducia, a parte vabbè, l'amicizia che abbiamo, non ho problema con Fabrizio, se no faccio l'anno, Tony, non ci vedo più, mi ha proposto, c'è anche il curista che mi ha già fatto la visita, 80 euro matta nelle varie, per gli occhiali, capito? Per gli occhiali, quindi domani il dentista, poi quello, poi quell'altro, poi bisogna gli occhiali. Io grazie a Dio ho fatto quando è settembre, il 10 o 12 ho fatto la visita per la patente, e ho fatto altri 3 anni, senza occhiali, perfetto, 10-10, vabbè. Gli occhiali li uso un pochettino da 1,5 perché me la cintura figurina e basta, non per la televisione di giornale, non me la faccio, è mai naturale, dai, l'età che ho, diciamo, non so, caro ragazzino, ma comunque grazie a Dio, l'importante è che sono 10-10, vedo bene. Sì, io vedo bene. Io ne ho 4 meno di 3 metri, sono tanti, ed è già da qualche anno che da vicino non ci vedo più una mazza, capito? Da lontano ancora imbatto, però da vicino non ci vedo più. E allora, oculista, occhiali, ma ecco, se peggiora ne devo far fare anche quelli da lontano, e la mazza che ne voglia. Ma io ho visto qualche amico che ero una vita che non lo vedevo. Pensa da Fiume Santo, dal 85 sembra. Ciao Tony, incredibile. Non ti riconosco, scusami. Roberto Ara, Pisellino. Fiume Santo, pensa un po'. niente, Maestro, tu sei sempre lo stesso, eh? No, meglio così, lo dica. Io avevo fatto il patto col diavolo, ricordatelo. Forse perché bevo caffè ci dice nemmeno. Comunque scherzi a parte, la prossima che sono sempre in movimento, poi ripeto, non sono mai pessimista, sono sempre un ottimista in tutto e per tutto, Claudio. Se non dico mica ho problemi, ma questo non ci riesco a farlo, no, io ci devo uscire prima o poi, mi do sempre da fare una parte all'altra, sono per tutti, quando mi chiamano sono sempre il primo. Sono stato sempre, anche la persona dice, ma tu non ti fermi mai, sono molla, e io vabbè, a me piace uscire. E quindi, diciamo, se mi tengono giovane, come se mi hai conosciuto tu, diciamo, come sono adesso, uguale identico. Se io tradizionale sono così, poco la prima. No, ma che io non ho cambiato, io sono sempre uguale. Fisicamente sono sempre uguale, un po' più grossetto, diciamo, un po' più grosso di prima, ma è derivato anche da io prendo un bel po' di cortigione, non è che un milione metri. Quindi anche quello. Però mi tengo un po' a regime, nel senso che non è che faccio molti travizi ogni tanto. Ogni tanto quando abbiamo qualche evento del nostro gruppo, come quello di venerdì, eccetera, non è che si lascia andare più di tanto. Insomma, cerco di limitare. Però io sono sempre uguale. E il problema è che tu sei sempre uguale, ma i dolori non hanno giambato qualcosa. Beh, io, grazie a Dio, ne risento soltanto la schiena che là, quando mi arrancia le scarpe, allora metto piede sulla sedia e me la lancio. E basta, oppure quando se mi piego sbagliata meglio, mi devo impiegare con le ginocchia e abbassarmi, se io mi piego in avanti, e allora un po' ne risento. E vabbè, quello che ho avuto e quella che ho nella schiena, non ero mai a poco. Grazie a Dio, comunque, sono rinato, tutto qua. Ma comunque, l'importante è andare avanti con la vita, dai. Niente, io non è che mangio molto, la verità, ho sempre con la pancetta, non vuole andare via, se abbia luci, il metabolismo è lento, non è più come una volta. Cerco di mangiare di meno, ho provato in 2 mesi, ma che? Beh, non me la fotte più nulla, se abbia luci. Dato questa età, cosa devo fare? Sarei passare il max se abbia luci. Hai detto proprio bene, il metabolismo non è neanche mangiare, perché io non sono un grande mangione. C'era un periodo d'estate, la birretta, il vinello, eccetera, ma ho eliminato tutto, no? Proprio appena appena, giusto per pranzo, un bicchiere di vino, ma ce l'ho sempre. Però non è più come prima, perché hai detto bene, il metabolismo è andato a farsi forte. Non vuoi più nulla da fare. Vabbè, ma comunque basta stare, diciamo, solo attenti a mangiare, non a buffarsi, anche una volta alla settimana si può fare, fine settimana con gli amici, una rostita con quell'altro, ben venga, capito? A me se mi capita, lo stesso non dico no, se abbia gli alluci, però ripeto, nel mangiare molte volte io salto il pranzo perché arrivo tardi a casa, una cosa o l'altra, poi capita aiutare qualche persona, l'aiuto, e si fanno 2 o 3 arrivare a casa, e cosa mangi? E te ne passa la gana, mangio una fetta di melone e ciccia, buonanotte, ecco, 1 o 2 fette e poi niente, e quindi salto, e più di volte mi è capitato di saltare, capito? A cena lo stesso, quando rientro tardi, capita, e pazienza, saltiamo tutto e buonanotte. E ti posso dire una cosa, grazie a Dio, la mattina mi alzo sempre tranquillo, contento, ogni mattina alle 5 io mi sveglio, è più forte di me, l'abitudine, e mi ripeso. Quindi sto lì a prendere le pastiglie che devo prendere, fare colazione, penso di che colazione, un bicchiere di latte, clown, è buono, non ci metto niente in mezzo, ma lo bevo, poi tanto meno le sollevo per mezzo 10, sento l'anguina allo stomaco, no, se sono fuori un bel caffè macchiato e via, e così tira campa fino a mezzo l'una che arrivo a casa. E la vita è questa, capito? Quindi. Ma è così per tutti, anche io la colazione la faccio con un caffè e basta, infatti mia moglie si incazza sempre, mangia qualcosa perché prendo un bel pastiglie, prendo il gas protettore, sto prendendo perché sennò me ne vado all'altro mondo con tutte queste pastiglie e niente, tutto qua, la sera, poi ceniamo proprio leggero leggero, una bella insalatona, una fettina che non sia grassa, capito? Questa sera c'è la cena mia figlia, e quindi faremo la pizza, basta, niente di che, non è che mi devo buffare. È proprio così, vabbè, pazienza, ma va bene Tony, che c'ho la gola asciutta, allucinante, vabbè, dammi qualche altro minuto, grazie, sono qua. Sai, tranquillo, io qua ho portato la bottiglia dell'acqua, per sicurezza, già sono qua, grazie, vai con comodo. Cosa? Cosa? Qua. Ho fatto un po' impressa, la radio è un po' leggermente diversa. Ma diversa la voce ho cambiato. Eia! Io sono affermato. Ma sì! Affermato! Molto bene! Addirittura! Eia! Ascolta, non è bassa la radio! Non mi capisci, non riesco a parlare, così mi sono male, insomma. Sei forte il segnale, radio amplificata. Devo abbassare, quindi è troppo amplificata. Scappa. Guarda se va bene ora, aspetta un attimino, un minuto. Adesso è migliore 100.000 volte. Fabri. Aspetta un attimo. Via. Lillo, butta giù la pasta, che bronca. Ebbè, papà. Ui, tu lì, dove vai in casa? Cosa ne sai? Avevo vostro che c'è sempre in giro, ma noi, aiuto, dai. La domanda del temporale. E tu, casino, non travagli? No, riposo oggi, come la mattina alle 5. Ebbè, tanto faccio qua. Cazzo riposo, modo di dire riposo. Oh, c'è uno che mi sta sbratterando dall'America, boh, che cazzo, forse è fortissimo, c'è la propagazione, cazzo mi splattere addirittura, sull'11. Sì, c'è la propagazione sicuramente. Accesa gli aerei, la luce a quei poveri pesci. Alle 7 la cena la luce. Alle 7 fino alle 11. 4 ore basta. Se poi le mandi a letto, va. E poi vanno a dormire. Scappa. Anda bene mela. Da oggi io sono caldo, ho dato bere un po' di acqua. Non c'è altro nessuno, c'è Fabrizio che è in programma col computer. Chi sì, Fabrizio? Scappa. Ecco Fabrizio. E so anche da voi in che zona, la zona al 100% tranquilla. Andare. È un bravo tecnico. Ma lo deve sistemarsi. Mi deve sistemare qualcosa. No, grazie a Dio, mi sistemare. Io sono già sistemato l'ho tolto i soldi come a te, buco. Ho capito. Ho detto cosa mi devo sistemare? Niente, tutto a posto io, capito? Grazie a Dio, ho detto, mi ha sistemato anche da tolto i soldi come hai sistemato a te. Mamma mia. Cazzo, erami zombie, erami. Come Emanuele, 5. Sono all'interno questo guardatino. Perché Emanuele sta usando un attimino al primo piano, adesso c'è un filo per stendere, capito? Non lo può mettere il palazzo che ha 7 piani, perché è fatto tipo a piramide, è un casino, e quella la mia che sono. Se si motivi sopra di cinghia dove ne si ammazza. Non può mettersi in antenna come si deve. Sempre una materia settoria. Mi senti Emanuele, se mi senti ti saluto e ti abbraccio, ma io non ti sento a te. Sì, qua ti sento, dai. Salutalo comunque, Tonino, già lo sento. Sì, Claudio, ti sente abbastanza bene. Un saluto anche da Emanuele. A voi voglio spazio dal canale 11, cazzo, lì c'è la stessa storia. Tutti gli americani, una cosa impressionante. Ehi, noi ci abbiamo fatto, io sta arrivando come forte, sta arrivando. Mi sta spratterando anche a me la mazza. Ti sta spratterando a me, con questo guaracchinetto. Andiamo. Bubu, andiamo bene, andiamo. Ui. Ma comunque, sinceramente, Claudio, posso dire che io sono stato 4 mesi con l'antenna staccata al baracchino, proprio per terra, non me ne fregava niente. Una bambina sul baracchino, capito? E tiro, sono stato che bene, tranquillo, sereno, la baracchina come che non esisteva. E poi dove si attacca a Pocarizzo? Poi quando senti delle chiacchiere, dice insomma, non sei che nessuno, li fai gli affari tuoi, mi dà fastidio, capito? Ci messo, non cerco nessuno e me lo con le palline, gà. Ma che dimmi capisano che sono tranquillo, gà. Ancora, sempre la stessa storia, e forse vuoi entrare a poco. Giusto a fare due chiacchiere per il resto non interessa più niente. Vabbè, più o meno avrei capito, ma ripeto, a me sinceramente non mi piace. E poi questa persona va a dire uno di lì che te l'ho detto io. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi vabbè, alti e bassi, si vive anche di queste cose purtroppo. Oggi le persone che ti possono dare veramente soddisfazioni sono poche, molto molto poche. E questo lo può dire voce alta. Guarda, a parte che Emanuele è mio figliuccio, perché l'ho presimato, però posso dire che Emanuele è una persona squisita. Posso dirti che è una bravissima persona, 100.000 volte, e non è con i cerramenti. E io lo conosco Emanuele, già ci siamo frequentati un periodo, ci sono problemi. Però i discorsi sono sempre qui. Io, a prescindere dalla voglia, da tutto ciò che c'ho da fare, perché qua non sei in condominio, quindi devi fare tante cose, tu ero impegnato in altre cose, eccetera, salute, balle varie, ma alla fine il taglio generale l'ho dato proprio perché è troppo storpia, capito? E quindi...